Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Negli ultimi tempi capita sempre più spesso che i film siano tratti dai romanzi. Qualcuno dice che c'è un periodo di crisi da parte degli sceneggiatori che non riescono a trovare così idee originali e quindi in qualche modo si rifugiano nei romanzi che hanno avuto successo. E questo riporta i romanzi da cui i film vengono tratti di nuovo in classifica. Per esempio è successo ultimamente con Storia di P, oppure con il libro di Margaret Mazzantini, Venuto al mondo. E oggi per parlare di film tratti dai romanzi abbiamo ospite Federico Baccomo in arte Duchesne, perché il 7 febbraio esce il film tratto dal suo primo romanzo pubblicato nel 2009 che si intitola Studio illegale. Protagonista del film sarà Fabio Volo. Allora Federico, a distanza di 5 anni da quando è uscito questo romanzo, esce il film. Ricordiamo che il romanzo ha avuto un grandissimo successo, ha venduto più di 60.000 copie, che insomma in Italia è un risultato piuttosto buono, direi, ed è pubblicato da Marsilio. Esatto. Che impressione ti fa l'idea che le cose che tu hai scritto in questo romanzo adesso qualcun altro le ha messe così in immagine in un film? Uso il termine banale, emozionante, ma perché quel libro lì è uscito nel 2009, ma è nato da un blog nato nel 2007. Quindi io ricordo la sera che tornavo dalla pizzeria e mi è venuta l'idea di aprire un blog in cui raccontare la mia esperienza professionale di ex avvocato, e ti ritrovi che da un blog, da una piccola idea notturna, più o meno alcolica, a distanza di, quindi dal 2007, addirittura 6 anni, hai appunto la pubblicità in televisione, i manifesti con attaccati. Con il film, sì, che ho visto in metropolitana, per esempio, quindi deve essere... Fa strano, perché tu, almeno io sono forse il solo che conosce tutte le evoluzioni e so quante tante piccole coincidenze, circostanze che hanno portato ad arrivare a questo risultato. Quindi al di là della bontà o meno del film che a me è piaciuto, ma al di là di quello ha proprio un significato in sé, perché nasce da uno scherzo, da un gioco, e ti ritrovi ad avere Warner Bros. Che presenta un film. Che presenta il tuo film, il film tratto dal tuo romanzo. Io ho visto quel logo lì prima di Casablanca, che è il mio film preferito, e adesso è prima di Studio illegale, con le dovute proporzioni, però insomma è quella storia. Adesso non ci allarghiamo troppo, sì. Bacco. Allora, parliamo di questo romanzo, perché adesso c'è l'edizione comunque tascabile, disponibile in libreria, e io mi auguro per te, insomma, che possa magari, chissà, anche ritornare in classifica, proprio come è successo ad altri romanzi da cui sono stati tratti film. Il protagonista di questo romanzo è un avvocato, Andrea Campi, anzi, come lui si definisce, un avvocato d'affari, ci tiene a precisarlo. È un romanzo veramente che io ho letto ovviamente qualche anno fa e mi sono divertita tantissimo. E io ho trovato nella scrittura di Baccomo una bellissima ironia, una sottile ironia quando descrive il mondo degli avvocati milanesi con per esempio una ragazza che ha il cervello nella borsetta, lo trovo stupendo. Allora, dicevamo, il protagonista è Andrea Campi, che poi saresti tu. Sono io nei limiti in cui ho voluto mostrare una certa parte di me, per cui mi piaceva molto che il personaggio fosse un pochino debole, un pochino fragile, che sono le debolezze, le fragilità che ho io e che ho paura di manifestare. E in quel caso lì, attraverso appunto la parola scritta, che è una delle cose belle dello scrivere, potevo tirare fuori delle parti di me che poi dicevo, magari la cancello se non mi piace. Però alla fine sono rimaste, e c'è un episodio in particolare nel libro del personaggio appunto che va in discoteca e racconta tutta la noia dello stare appoggiato a una colonna con un bicchiere in mano, far finta di guardare le ragazze e tenersi stampato quel sorriso in faccia, e lui racconta cosa prova veramente in quel momento. E io ne sono fiero, perché provo tutte quelle cose lì, e mentre lo scrivevo mi vergognavo di scrivere quelle cose e quando l'ho riletto a distanza di tempo ho detto, no, questa parte la devo infilare perché fa parte di te, insomma. Sì, perché sono quella cosa lì e ti dà la possibilità di tirare fuori appunto una roba che magari nel mondo, nella vita quotidiana, non sai mai. Per cui sono io e non sono io in questo senso. Ecco, in questo libro il protagonista sembra vivere un po' per i fatti suoi e riesce a guardare come dall'esterno tutto questo mondo, forse troppo frenetico, degli avvocati che se la tirano un po' troppo, che danno troppa importanza a tutto. Quindi è un occhio distaccato. Tu adesso non fai più l'avvocato per colpa del libro? Bah, in realtà è il caso effetto al contrario, non faccio più l'avvocato, cioè ho scritto il libro perché non faccio più l'avvocato. Ah, ok, quindi hai lasciato prima la professione, l'hai potuta criticare in modo ironico. Sì, ma la cosa bella era che secondo me il personaggio è tale quale a tutti quelli che critica. Soltanto che per sopravvivere a quel mondo lì e non accettare il fatto di essere esattamente come gli altri, lui si astrae e lo vede con quello che sembra cinismo, e in realtà è l'autotutela sua. Per cui, per non dire guarda che io sono esattamente come il mio capo, il mio collega, lui li prende in giro e prende in giro se stesso. E ha quella sorta di distacco, che è quello il distacco di tutti poi i personaggi, di quelli che parlano di un divorzio come se fosse un film alla televisione. Perché è un modo di sopravvivere. Se invece cominci a considerare la tua vita per quello che davvero è, ecco lì c'è il rischio che diventi anche un pochetto infelice. Questo Andrea Campi, questo avvocato, ha un capo veramente, non so come si direbbe, sborone in qualche modo, cioè eccessivo. Che rapporto c'è fra loro due? E quello è il personaggio che io amo di più, paradossalmente, perché è la nemesi di Andrea. È un uomo che parla per frasi fatte, uno che dà queste lezioni di vita del tipo che l'umiltà è solo la presunzione che l'ha presa in culo. Insomma, sono che poi hanno una loro genialità, queste frasi. Però è esattamente l'uomo che potrebbe diventare Andrea, e Andrea piano piano realizza che quello è il suo destino, per cui odia una persona che è poi l'esito del suo percorso. Per cui c'è questo rapporto in realtà di amore e odio, perché riconosci in lui tante cose di te e sono esattamente le cose che vuoi che non si realizzino mai. E sono come quei discorsi tra padre e figlio, che tu poi diventi quello che era tuo padre. E lì è paradossale, perché il cattivo del libro, appunto questo personaggio, si chiama Giuseppe, e io alla fine del libro mi sono accorto che mio papà si chiama Giuseppe. Quindi ho detto, sei quelle cose. Sì, sì, io dici, ecco, Freud è avrebbe qualcosa che ha fatto la sua fortuna. Sì, avrebbe qualcosa da dire su questo. Quando è stato pubblicato questo romanzo nel 2009, l'hai pubblicato con uno pseudonimo, Duchesne. Per un po' di mesi, insomma, non si è saputo che il vero autore, appunto, eri tu. L'hai pubblicato con uno pseudonimo perché avevi paura delle ritorsioni dei tuoi ex colleghi avvocati che magari hai preso un po' in giro? Ma in realtà è nato proprio per il blog, perché i blog ai tempi erano quasi tutti anonimi. Io volevo raccontare liberamente una storia e le mie vicende più o meno romanzate, più o meno divertite, e volevo farlo senza avere l'idea che qualcuno potesse dirmi qualcosa, per cui non lo sapeva nessuno. E ricordo che quando è uscito il romanzo ho pensato, forse ai miei genitori dovrei dirlo, e ho mandato un messaggino a mia mamma. Ho detto, mamma, vai a comprare Studio Illegale di Duchesne, sono io, poi ti spiego, giuro, questo è il messaggio. Mia mamma, questo è il rapporto che ho io con i miei, mia mamma mi ha risposto, va bene. Dopo due giorni mi ha scritto, molto bello, mi è piaciuto, sono fiera di te. Così, neanche chiamato, 5 minuti dopo mi ha scritto, ti chiedo scusa per non aver capito tutto il tuo tormento. Perché lei ha pensato fosse tutto vero. Certo, ovviamente. Quindi, però, insomma, quindi era una cosa che... Sì. E poi però quando hai svelato il tuo nome, anche insomma i tuoi ex colleghi, così c'è stato qualcuno che ti ha minacciato in modo scherzoso. No, sì, ho saputo di piccole storie. Ma ad esempio recentemente, che appunto sta per uscire il film, mi è arrivata una telefonata di una vecchissima collega che mi ha detto che questi vertici dello studio hanno chiesto il mio numero di telefono per dirmi qualcosa, non sapeva cosa. Dubito. Ti hanno chiamato? Non mi hanno chiamato, io gli ho mandato il messaggio rispondendo dagli pure il mio numero se vogliono farmi le congratulazioni. Ma nel caso debbano dirmi qualcosa di sbagliato, digli che è meglio non dirmi nulla. E io da questa cosa qui, io non ho mai parlato del mio vecchio studio, invece adesso vedi, già mi viene la tentazione di raccontare che mi hanno chiesto il numero e tutte queste cose qua. È proprio il famoso Bastiano Tarita. Senti, un'ultima domanda, Federico. Adesso uscirà appunto questo film tratto da Studio Illegale, però insomma, tra l'altro si girerà un film tratto anche dal tuo secondo romanzo, insomma, evidentemente hai una scrittura molto cinematografica, ma stai lavorando ancora su qualcosa di scritto? Sto lavorando sul nuovo romanzo, su poi il fatto che i miei libri diventino film, secondo me più che la mia scrittura è il segno della grande crisi culturale italiana. Per cui, sei modesto. No, ma va bene così, andiamo avanti in questo senso, per cui io sto bene. E allora grazie a Federico Baccomo in arte Duchesne. Vi ricordo che nuovamente in libreria, insomma nell'edizione tascabile, il suo romanzo Studio Illegale, pubblicato da Marsilio, dal quale è stato tratto l'omonimo film che uscirà nelle sale il 7 febbraio. È un romanzo che vi consiglio perché, come dicevo, è scritto con grande ironia. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Come sempre, una volta letto il libro potete scrivermi il vostro parere a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.